la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon venerdì 26 di giugno, 16.33 primi 35 secondi, siamo in diretta qui dagli studi della radio di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia. Se eravate collegati avete capito che è una giornata, diciamo, di quelle particolari, perché tra i tre attentati tra Francia, Kuwait e Tunisia dell'ISIS, tra la rottura notturna, insomma oggi, tra Grecia ed Eurogruppo, vedremo domani la riunione convocata dell'Eurogruppo, se c'è. Domani è davvero l'ultimo giorno possibile, perché se c'è un accordo lo deve votare il Parlamento greco e la scadenza è il 30, vedremo se questo dissenso finale sul documento proposto dalla BCE, dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario ai greci passa oppure no, si risolve oppure no. Le dichiarazioni stamane dei componenti greci del governo, di Tsipras e di Varoufakis, sono durissime, quindi secondo elemento. Terzo elemento, avrete capito che il Consiglio Europeo anche sulla questione dei migranti, che si dica dell'accordo poi raggiunto, conferma che l'Unione Europea è proprio incapace di prendere decisioni all'altezza della gravità dei problemi che deve fronteggiare. Insomma, una giornata non particolarmente, tra virgolette, allegra. Però, detto tutto questo, io ho pensato che noi avevamo una specie di debito, almeno io personalmente l'ho sentito così due giorni fa, quando è uscita la notizia in mattinata del suicidio di Egidio Maschio, imprenditore padovano, 73enne, che nei decenni, partendo da zero, partendo da una stalla, ha fondato e fatto crescere nel mondo un gruppo di macchine agricole che era arrivato a fatturare quasi 200 milioni di euro. E di fronte alla notizia del suicidio mi sono molto interrogato, volevo parlarne lì per lì, poi mi sono detto no, perché molto in passato, quando facemmo la campagna Disperati Mai, nei mesi successivi, in tutto il corso del 2015, mi hanno detto che avevamo parlato troppo dei suicidi d'impresa. Ho visto anche che economisti oramai non trovano di meglio che dire che i dati sui suicidi degli imprenditori, dei lavoratori, dei senza lavoro dovuti alla crisi, comunque non hanno una base statistica affidabile, quindi non sono citabili. Non c'è una base statistica affidabile perché nessuno li rileva, che non se ne possa parlare per questo mi sembra un po', devo dire la verità, un'ipocrisia, e quindi consiglierei agli economisti di polemizzare su tante altre cose che non vanno nei numeri pubblici. E quindi mi sono detto aspettiamo due giorni, facciamola sedimentare questa vicenda, però mi sono detto bisogna fare una puntata dedicata a Egidio che si è sparato, a far parlare qualcuno di coloro che li hanno conosciuti e conosciuto, non solo per parlare di lui, per parlare dei tanti di cui poi non abbiamo più parlato nel 2014, inizio 2015, che continuano ad avere questa pulsione e molte di loro la mettono in atto di fronte alla durezza della crisi. Certo, la vicenda di Egidio Maschio è ancora più terribile, perché si tratta di un imprenditore che porta la sua impresa davvero ai quattro angoli del mondo e che decide di tenere duro sui suoi quattro stabilimenti in Italia, che nel 2012 firma un accordo con i suoi dipendenti qui in Italia dicendo io mi impegno con voi sul lavoro sicuro, cioè nel difendere la base occupazionale, e i dipendenti lo contraccambiano capendo, dicendo va bene, ok, su questa base niente aumenti, tutti uniti. E il gruppo naturalmente però nel tempo si indebita, è indebitato sempre di più, e l'imprenditore capisce che a quel punto deve fare un passo indietro. Questo non capita spesso, tantomeno in imprese così di successo mondiale. Capisce che a quel punto la richiesta delle banche con cui è indebitato di far subentrare una gestione manageriale e non più la sua è fondata, accetta di far fare un passo indietro a sé e alla propria famiglia, quindi all'inizio di giugno perde il potere di firma, si nomina un nuovo amministratore delegato concordato con le banche, un nuovo chief financial officer concordato con le banche, però fa tutto questo, compie il suo dovere verso i dipendenti, verso il futuro dell'impresa, verso i creditori che gli chiedono di fare il passo indietro, dopodiché decide di che c'è un altro conto da regolare e dopo aver salutato la sua compagna Fiorina la mattina va in azienda e con un fucile si spara. Allora, siccome queste vicende non nascono per un atto di follia improvviso, ma rappresentano mesi e mesi di profonde riflessioni da parte di un personaggio che chiunque l'abbia conosciuto descrive come una quercia, insomma, un uomo solidissimo e così via, mi sono detto: facciamo parlare oggi per ricordare lui e i tanti, oltre a quelli che se ne sono andati abbracciando i loro familiari, ma i tanti che continuano a pensare, siano imprenditori, siano lavoratori, siano disoccupati, che questa è la soluzione al problema della loro crisi. Ecco, pensando a tutti loro e sperando di essere comunque utili, oggi abbiamo chiamato due persone che appunto hanno conosciuto Egidio Maschio, e forse meglio di altri possono per questo testimoniarci qual è l'impressione che hanno avuto, il motivo secondo loro, i motivi sono evidenti, quelli che vi ho detto, ma che cosa può aver indotto una figura come la sua a decidere di fare quello che ha fatto. E quindi con noi, io li ringrazio di aver accettato di rendere questa testimonianza, abbiamo un altro grande imprenditore dello stesso settore, e anche qua un imprenditore che prima di tantissimi altri ha internazionalizzato il suo gruppo, cioè Mario Carraro, il presidente della Carraro Group. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio, anche se non sono più presidente, sono compio 86 anni, lo so. A ottobre. Per me il presidente è merito, ha ragione a ricordarlo per la precisione, però. D'accordo. E poi è con noi anche uno dei dipendenti e dei delegati sindacali della Maschio Gaspardo, appunto l'impresa fondata e diretta fino all'inizio di giugno da Egidio Maschio, cioè Paolo Del Mastro. Grazie Paolo di essere con noi oggi pomeriggio. Buon pomeriggio, a voi. Posso cominciare proprio da lei, Paolo? Nella vostra esperienza, cominciando da quel contratto 2012 appunto che metteva in sicurezza con un contratto integrativo i posti per tutti i dipendenti e con la risposta che venne da voi tutti i dipendenti, ecco, che tipo di imprenditore era nei confronti dei dipendenti? E mentre poi negli anni successivi, dopo l'accordo del 2012, anche voi sapevate che le difficoltà crescevano, come si comportava? Allora, io lavoro in Maschio da circa 20 anni e conosco Egidio Maschio da circa 17 anni. Ho iniziato a fare il delegato sindacale dopo 2-3 anni che ero in fabbrica. Ho conosciuto Egidio, ecco, nelle trattative. Lui aveva un suo modo di fare le trattative con gli operai, con i lavoratori. Aveva un modo da imprenditore, da lavoratore. Lui non si presentava con i top manager, non si presentava si presentava lui e il capo del personale e un'altra persona che gli stava vicino, ma non aveva top manager, non aveva quelle figure, ecco, che oggi li vediamo in giro. Lui non aveva lauree, non aveva studiato a Oxford, era una persona umile con i suoi dipendenti, umile nel lavoro. Ecco, lì oggi c'è Mario Carraro, che rispetto tanto. Buongiorno signor Mario. Buongiorno Paolo. E so che ha lavorato, e lo diceva sempre. Aveva cominciato nel gruppo Carraro, infatti, Egidio Maschio. Sì, Egidio Maschio ha lavorato in Carraro. Ogni volta che noi ci vedevamo, sempre lui elogiava la Carraro, diceva che lui prima aveva fatto l'operaio e poi ha fatto l'imprenditore. Egidio Maschio era un grande, posso dirlo ad alta voce, perché ogni volta che si poi tra l'altro, adesso perdone, noi non lo abbiamo detto, io mi sono dimenticato di dirlo, lei è un delegato sindacale della CGIL, quindi questo lo dico anche perché la FIOM, FIOM, cioè non è che è sospettabile di essere collusivo con gli imprenditori, se c'è da discutere la FIOM, come sappiamo, discute, la mette giù anche duramente, quindi ci mancherebbe altro, però volevo aggiungerlo perché qualcuno non pensasse che è espressione di un sindacato giallo. No, io sono delegato della FIOM, sono, ecco, da 17 anni all'interno della Maschio e sono da 17 anni il delegato sindacale della FIOM. Siamo di maggioranza dove... Ma questa maniera di trattare che lei ci ha descritto, cioè fuori dagli schemi del il manager CEO anglosassone o il presidente, insomma, che se la tira, è diffuso dalle vostre parti nelle aziende meccaniche eccetera, o lui da questo punto di vista, pur in un'impresa grande, quindi nelle piccole è più diffuso, lo sappiamo, però voi siete un'impresa di una certa taglia dimensionale internazionalizzata, dalle vostre parti nel Padovano e in Veneto quelli come Maschio sono ancora la regola o era già un'eccezione generazionale? No, allora io sono delegato della Maschio e conosco poco la realtà del Padovano, però posso dire che imprenditori così se ne contano sulle punte della vita, delle dita, ce ne sono. E dove ci sono ancora questi imprenditori, ecco, ripeto sempre, il gruppo Carraro fa parte di questi, il gruppo Maschio fa parte di questi, dove sono quegli imprenditori, le aziende reggono, le multinazionali reggono, perché la prima cosa loro guardano il territorio, l'operaio, i lavoratori non guardano più che altro al proprio interesse, loro guardano, cioè Egidio Maschio ci ha lasciato per l'azienda, non è che lui ha lasciato per l'azienda, io sono stato uno dei primi a vedere Egidio Maschio, sono stato l'ultimo a parlargli, perché alle 5.40 lui mi ha salutato, alle 5.50 io gli ho parlato e lui mi ha detto: Paolo, vai giù e adesso arrivo. Io lo stavo aspettando, sono andato su ed è successo quello che è successo. E ho visto quello che ho visto. Non se lo aspettava comunque. No, non ce l'aspettava. Non ha mostrato nessun segno di cedimento. No. Ma con noi no, perché è stato sempre lui, sempre Gino Marco. Quando viene in fabbrica la prima cosa, ragazzi, non mollate, mai mollare. Insieme si vince. Chi molla è finito. Io non mollo. Io sono il padre di questa famiglia. Voi siete i miei figli, voi siete la mia famiglia. Cioè, lui non ha mai dato segno di cedimento. Ogni cosa... ci dava lui la carica a noi, lui entrava in fabbrica, era parte di noi. Chissà che diavolo, allora ha maggior ragione. Carraro, ha maggior ragione allora, lei che insomma lo ha conosciuto per tanto tempo, eccetera, ma se lo aspetta, che cosa può essere successo? Devo dire che un po' era spento negli ultimi tempi. E dottor Giannino, Maschio è venuto da me prima di assumere Bordi e il nuovo CFO. Per chiedermi consigli, sì. Bordi io lo conosco molto bene perché è stato per parecchi anni amministratore delegato della SAME, che è un nostro cliente, pertanto nel settore, certo. Una scelta molto buona. Il direttore finanziario gliel'ho dato dalla nostra azienda, nella ristrutturazione l'abbiamo dovuto spostare e gli ho consigliato e l'ha preso il giorno dopo, se si vuole. Sa, c'è una cosa in tutta questa vicenda: il giorno dopo essere stato da me, era anche con i miei figli, avere parlato con i suoi figli, era con Mirko e Andrea, e ha parlato di questa sua situazione, il giorno dopo aver deciso per l'amministratore delegato e CFO, domanda anche un direttore del personale. Ho l'impressione che lui che non poteva stare con un amministratore delegato, era incompatibile che un presidente come Maschio lavorasse con un amministratore, certo, delegato, ha messo l'azienda a posto anche per i figli, cioè, sì, il fatto di chiedere in seconda istanza anche il direttore del personale, in fondo faceva il quadro, il nucleo manageriale indispensabile per dire che questa è un'azienda a conduzione manageriale. Quindi da un certo punto di vista fa parte di un disegno che aveva evidentemente deciso: metto, sì, in sicurezza tutte le figure di prima linea dell'azienda con una gestione manageriale esterna alla famiglia, a quel punto ho pensato anche alla sicurezza dei miei due figli per il futuro. Sì, io sto meditando così, certo, da vecchio, certo, dottore, certo. Penso che si debba pensare anche alla famiglia. Le devo aggiungere che poi il suicidio di Egidio, povero, non è che assomigli ai suicidi che si sono generati nel Veneto, perché l'azienda non è un'azienda malata, ha dei prodotti eccellenti, competitiva, certo. Povera, so che hanno più volte richiesto di comprare aziende di primissimo piano a livello mondiale. Mondiale, sì, abbiamo letto sui giornali, lui ha sempre detto no, dicendo no, questa azienda è qui e qui la proprietà resta. L'azienda pertanto così è vero che è indebitata per delle azioni. Io l'avevo sconsigliato di recente, ho detto: guarda che stai esagerando con questi acquisti che non sono poi sinergici alla strategia che tu hai scelto, insomma, ho detto ci penserò, però ha ragione, negli ultimi tempi mi dava ragione. Però le aveva fatte quelle scelte che appunto hanno pesato l'indebitamento. 60 secondi interruzione sulle strade e poi torniamo con i nostri due ospiti, stiamo parlando del suicidio di Egidio Maschi. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:49:50, anzi stiamo parlando del suicidio due giorni fa, mercoledì, di Egidio Maschio, il fondatore, patron fino all'inizio di giugno, capo della Maschio Gaspardo, un'azienda a 200 milioni di fatturato, stiamo parlando di macchine agricole fortemente internazionalizzata, insomma, quindi di eccellenza assoluta nella sua filiera di prodotti, difficoltà per l'indebitamento, decisioni prese per crescere ma indebitandosi, ma un atteggiamento con i dipendenti negli anni di conferma sempre dell'occupazione qui e con relazioni contraccambiate anche dai dipendenti di comprensione verso le difficoltà, verso il progressivo indebitamento dell'azienda, e poi la decisione di uccidersi dopo, come abbiamo visto, aver messo in sicurezza i vertici dell'azienda, l'amministratore delegato nuovo, il chief financial officer nuovo, il capo del personale nuovo, e poi pochi giorni dopo la decisione di farla finita. Tra l'altro domani, per chi fosse interessato, domani alle 16 ci sono i funerali di Egidio Maschio e le esequie tengono in azienda, proprio nel caprone della ditta che sta a Campodarsico in via Marcello, alle 16, per chi ci ascoltasse da quelle parti. La domanda che voglio fare a Mario Carraro però è questa: allora, è una figura particolare, lei ha fatto bene a dire non è come i tanti che purtroppo Padovano fece di record, sono più di 100 quelli, gli eventi di questo tipo avvenuti nel Padovano in questi ultimi 3 anni, ma sia pur nella differenza, ecco, questa vicenda degli imprenditori che hanno iniziato in questi anni a prendere in considerazione questa maniera di farla finita, secondo lei è espressione del fatto che poi l'imprenditore in realtà nasce con questa voglia di irriducibile e anche di fronte alle difficoltà preferisce uscirsene in questa maniera tragica piuttosto che accettare la sconfitta? C'è una componente di questo tipo secondo lei? Ma sa, credo che nell'evoluzione dell'economia imprenditoriale della nostra regione, che è molto recente, vi sia molto l'elemento del sognatore, in pratica, la forza anche del sognatore. Che è un po' la forza delle prime generazioni, insomma, di imprenditori. La forza delle prime generazioni. Vede, i fratelli Maschio lavoravano da me, alla sera facevano delle saldature per delle scheletri, dei sedie a tubolari eccetera, e io li ho dovuti licenziare perché poi chiamavano di compagni per fare lavorare, non facevano il lavoro straordinario da me eccetera. Allora proprio la flessibilità del contatto li ho licenziati, è stata la loro fortuna. Non sono mancati, malgrado questa rottura, che poi in fondo loro hanno ripreso immediatamente la linea delle macchine agricole non in concorrenza con la Carraro e hanno mantenuto, prendendo addirittura l'azienda un po' come modello, come Paolo certo lo diceva di cosa. Guardi, io sono in Cina a Qingdao, Maschio va in Cina e va a Qingdao, io sono in India a Pune, Maschio va in India e va a Pune, me ne parla a me, mi domanda dove cercare, mi domanda, aveva una bella relazione con me, però dopo faceva così da grande sognatore, perché lui sperava di avere di poter continuare. L'errore è, secondo me, che ha diversificato su settori non giusti, e credo a me poi, questo lo dico anche a Paolo che sta ascoltando, che se nell'ipotesi della crisi aziendale ci fosse il problema di licenziare del personale, credo che questa sarebbe la cosa che lui avrebbe accettato con maggiore difficoltà, non tollerava questo. Lui amava, io ho scritto anche in termini, in scala gerarchica al contrario, perché il suo amore prima di tutto era per gli operai, è più alto, meno per gli impiegati e niente per i dirigenti. Ecco, aspetti un secondo, vediamo se Paolo Del Mastro, dipendente delegato CGL della Maschio, è d'accordo con questa sua opinione intorno a Egidio Maschio. Era così anche secondo lei, Paolo? Guardi, confermo quello che ha detto il signor Carraro, perché noi La prima cosa che ha fatto, lui non ha chiamato i sindacati esterni, lui ha chiamato noi, la commissione, lui si chiamava la commissione, ha chiamato noi e ha detto: ragazzi, io diciamo che ho un problema che non è solo un mio problema, ma è un problema di tutti noi, e ho 78 esuberi, troviamo la soluzione, non voglio licenziare nessuno, perché sapete che io non voglio licenziare nessuno, tutti i dipendenti che io ho assunto dal primo all'ultimo fanno parte della mia famiglia, non voglio licenziare nessuno, troviamo la soluzione. La soluzione alla fine, abbiamo trovato un contratto di solidarietà che alla fine non si è concluso come si doveva, perché ci sono stati dei volontari che chi optava per un altro lavoro, chi per un'altra cosa, con un incentivo all'esodo, la maggior parte di questi ragazzi impiegati, operai, hanno optato per lasciare il gruppo, e così abbiamo raggiunto, comunque senza alcuna decisione coattiva da parte della no, nessuna decisione coattiva, niente, abbiamo fatto tutto uniti, tutto insieme, e lui ha detto: ragazzi, io ho questo problema, proviamo questo problema. Abbiamo fatto delle assemblee in ogni stabilimento e sono usciti proprio i volontari che gli facevano comodo quell'incentivo all'esodo, e sono usciti direttamente volontari, nessun licenziamento coatto, nessuno niente, tutto tranquillo. E infatti, allora, abbiamo chiuso prima, ecco, qualche giorno prima che lui prendesse la decisione. La decisione che ha preso. Allora, cari ascoltatori, io non voglio dipingervi un ruolo, una specie di piccolo santino, per dire che tutta l'età del lavoro è così. No, non ci penso nemmeno, lo sappiamo che non è così, che non è come nelle aziende che ci hanno descritto Paolo Del Mastro come dipendente e Mario Carraro, sotto il quale iniziò la carriera di Egidio Maschio. Però il meglio dell'Italia, tantissima parte d'Italia è fatta così. È fatta così, e forse è la nostra forza ricordarcelo, non dimenticarcelo, almeno questo, anche di fronte a chi fa gesti estremi. Lo so, io mi commuovo di fronte a cose come queste, ma penso che bisogna farlo, perché la memoria di questi è quella che ci ha dato l'Italia, che noi roviniamo se non facciamo come loro. Appuntamento domani alle 10:00 alle 12:00 ai Conti della Belva.